Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Solo tu. Chiederete, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, che c'entrano i Mattia Bazar con effetto notte, al di là della piacevolezza. I Mattia Bazar, pensate, sono legati alla lunga storia del rapporto di Putin con l'Italia. Putin, sapete, oggi, ieri sera era già arrivato in Italia, ha fatto un tour de force. E lui praticamente era stato incaricato nel 1983, quando ancora esisteva l'Unione Sovietica, di accompagnare a Mosca i Mattia Bazar, che appunto con il loro successo internazionale avevano fatto varie tournée. E pensate che passava per un agente, per una guida turistica, in realtà sotto le mentite spoglie di invece ufficiale del KGB, perché doveva evitare che avessero contatti con chi andava contro il governo dell'Unione Sovietica. E da allora si era particolarmente appassionato alla musica italiana. Pare che anche dietro la riunione di Romina e di Albano a Mosca ci sia stato lui, insomma. Poi la lunga amicizia con Berlusconi, di questo parleremo, perché Putin oggi è protagonista in Italia. Poi parleremo però anche del Papa, tra l'altro Putin e il Papa si sono anche incontrati oggi, ma ci sono altre notizie importanti che riguardano il Papa, per esempio il fatto che abbia deciso di istituire un tribunale per colpire i vescovi che hanno insabbiato casi di pedofilia. Vi lascio tema libero, ci sono tantissime notizie anche oggi, per intervenire voi con gli sms o sulla pagina Facebook di Effetto Notte. E gli sms ve lo ricordo al 349 238 6666. Scusate, tema libero, purché naturalmente attinente alle notizie del giorno, attinente alle notizie di oggi, che vi vado a riepilogare. La visita di Putin in Italia all'Expo di Milano, nell'incontro con Renzi, dice bisogna levare le sanzioni, le imprese italiane perdono 1 miliardo. Poi a colloquio col Papa. La crisi greca, l'Unione Europea boccia l'ultima proposta, ma Merkel e Banca Centrale Europea riaccendono le speranze. Lotta alla pedofilia, il Papa istituisce un tribunale ad hoc contro i vescovi insabbiatori. Il crack della clinica Divina Provvidenza ha chiesto l'arresto del senatore del nuovo centrodestra Azzolini, in manette anche due suore. Omicidio stradale, sì del Senato, ma il governo è stato battuto 2 volte. Legge Severino, dall'anticorruzione 25 proposte di modifica. Indagato Lotito, l'accusa è di tentata estorsione, perquisita la sede della Federazione Calcio. Lui commenta: i miei accusatori diventeranno accusati. Trovato morto Khaled Al-Amsoul, il sociologo algerino studioso del mondo islamico, ex parlamentare, era in un albergo a Roma, non ci sarebbero segni di violenza. E poi Unioni Civili alla Camera, passa solo la mozione del PD. Partiamo quindi dall'intensa giornata del presidente russo Putin in Italia. Ha visitato l'Expo di Milano, ha incontrato il presidente del Consiglio Renzi, tra l'altro sullo sfondo dei loro colloqui, della loro conferenza stampa, il conflitto in Ucraina e le sanzioni alla Russia, che ha avvertito Putin, danneggiano molto anche l'Italia. Poi a Roma l'incontro col Papa, il presidente Mattarella. Il Papa nell'incontro, tra l'altro, con Putin ha affermato che è essenziale anche l'impegno per affrontare la grave situazione umanitaria in Ucraina, assicurando fra l'altro l'accesso agli agenti umanitari, con il contributo di tutte le parti per una progressiva distensione della regione. Insomma, ha cercato di fare un po' da mediatore. Poi andremo più nei dettagli più tardi. Un'altra importante notizia, vi dicevo, che riguarda il Papa è appunto questa decisione di creare un tribunale ad hoc per i vescovi insabbiatori, un istituto presso la Congregazione per la Dottrina della Fede, per quei vescovi che occultano le denunce di abusi su minori e disabili. Anche di questo parleremo più tardi con un ospite. Per Renzi, a sua volta, è stata una giornata sicuramente lunga, ma passata all'Expo, dove nel pomeriggio è intervenuto all'Assemblea di Federalimentare. Il premier è seduto in prima fila e il presidente di Federalimentare, aprendo i lavori dell'assemblea pubblica, coglie al volo l'occasione e rivolge una serie di appelli al governo per agganciare la ripresa, rimettere al centro l'azienda manifatturiera, ridurre la burocrazia, riformare la pubblica amministrazione. Presidente, devi farlo ora, in modo che la burocrazia pubblica, a qualsiasi livello, risponda per quello che fa. Queste le parole di Luigi Scordamaglia. La parola passa a Matteo Renzi, che inizia così: dobbiamo parlarci chiaro, l'Italia tutto per poter essere protagonista, ma la divisione ci ha impedito di fare il salto di qualità. Poi parla di occupazione: sarò contento quando ci sarà un lavoratore in più dall'inizio della crisi, ma i temi più scottanti sono altri, il primo la legalità. Io sono assolutamente convinto che l'opera di pulizia che è iniziata non soltanto non sia ancora completata, ma dovrà essere velocizzata e fatta nel modo più duro e rigoroso possibile. Quindi l'immigrazione, la frase rimandiamoli a casa paga, dice Matteo Renzi, che condanna però anche l'approccio buonista. Entrambi sono estremismi inaccettabili. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Al Senato intanto il governo è andato sotto sul disegno di legge sull'omicidio stradale, poi approvato. Ieri il passo falso al Senato in commissione, affari costituzionali sulla scuola, oggi in aula Palazzo Madama la battuta d'arresto su due emendamenti sul disegno di legge che introduce il reato di omicidio stradale. Si conferma così il Senato come terreno difficile per il governo, un Vietnam lo definisce dall'opposizione brunetta di Forza Italia. Dalla maggioranza tuttavia si minimizza e si liquidano gli episodi ad incidenti di percorso. L'esecutivo ha comunque portato a casa il provvedimento che rivede il codice della strada, 163 i voti favorevoli, 65 gli astenuti e due i contrari. Il testo passa ora all'esame di Montecitorio. Gli emendamenti introdotti al Senato vanno però ad incidere sul reato di omicidio stradale. Sono state tagliate dal disegno di legge le parti che introducevano l'estensione della pena della reclusione da 7 a 10 anni per i conducenti di veicoli che provocano la morte di una persona in seguito ad un attraversamento del semaforo rosso, un'inversione del senso di marcia, un sorpasso in corrispondenza di un attraversamento pedonale. Questa aggravante si applica ora solo a chi provoca la morte di una persona guidando in stato di ebbrezza. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Altro tema, quello delle unioni civili. Abbiamo parlato ieri della svolta del Parlamento europeo che riconosce le famiglie omosessuali. Per quanto riguarda l'Italia, c'è stato il sì dell'Aula della Camera alla mozione del PD sulle unioni civili. Il testo su cui il governo si era rimesso all'Aula è l'unico tra quelli approvati dall'Assemblea di Montecitorio rispetto a tutti quelli presentati che sono stati respinti. Quindi è passato solo quello del PD. C'è anche un'altra notizia che riguarda l'autorità anticorruzione, che ha approvato una delibera in cui sottopone al governo e al Parlamento 25 proposte di modifica alla legge Severino. Quanto ha fatto discutere questa legge con sostenitori e detrattori, e adesso c'è la proposta di 25 proposte, anzi, da parte dell'anticorruzione di modifica. Poi l'inchiesta che arriva da Trani e che vede una richiesta d'arresto per un senatore di Nuovo Centrodestra. Ci sono anche due suore finite ai domiciliari fra le 10 persone arrestate per il crack da 500 milioni di euro della casa di cura Divina Provvidenza di Bisceglie. Ma a fare notizia è soprattutto il coinvolgimento del senatore del Nuovo Centrodestra, Antonio Azzolini. Secondo il GIP di Trani, l'ex sindaco di Molfetta avrebbe di fatto preso il controllo dell'ente che gestiva la struttura, disponendo anche una serie di assunzioni fatte secondo logiche clientelari. La richiesta di arresto emessa nei confronti di Azzolini è stata già trasmessa al Senato, dove sarà vagliata dalla Giunta per le immunità. Dal 2013, dopo il suo fallimento, la Casa Divina Provvidenza, che ha sedi anche a Potenza e Foggia, era stata ammessa all'amministrazione straordinaria. L'inchiesta della Procura di Trani, partita un anno prima, ha portato anche al sequestro di un immobile e di 32 milioni di euro che sarebbero stati sottratti ai creditori. Un risultato reso possibile anche dal nuovo corso di trasparenza voluto dal Vaticano e dalla collaborazione fornita dallo IOR, hanno spiegato gli inquirenti. Andrea Viale, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi la crisi greca, sapete, ogni giorno se ne parla, sembra vicino l'accordo, poi si allontana. Dicevo prima, vedevo agenzie di stampa dove diceva che la cancelliera Merkel diceva ok, un accordo con almeno una riforma, poi invece Berlino che smentisce, insomma, non si capisce, sembra un valzer, Sergio Nava, senza fine, forse un sirtaki, per stare più, diciamo, su musicalità greche. Che dici? Sì, Roberta, ciao. Innanzitutto, beh, ciao. Possiamo dire che l'unica certezza è che c'è un'enorme confusione, ecco, ormai, effettivamente. Senza anche dubbio. Perché se guardiamo la giornata di oggi, veramente abbiamo visto di tutto e il contrario di tutto. L'unica punto fermo è che stasera c'è l'ennesimo, perché ormai non è più una novità, mini summit Merkel, Tsipras e Hollande. Tsipras ha visto in serata, poco prima dell'ora di cena, il presidente della Commissione Juncker, Commissione abbastanza irritata perché a quanto pare la controproposta greca, poi attesa alla fine, di fatto non rispecchia, almeno secondo quanto ha detto il commissario all'economia Moscovici, tutto quanto si è detto finora, insomma tutte le discussioni, i negoziati verbali fatti finora. Ci sono altri punti che poi sono emersi nel corso della giornata, il fatto ad esempio che a un certo punto verso il tardo pomeriggio un'indiscrezione parlava di una Germania sfinita che sarebbe stata d'accordo a sbloccare dei fondi pur di avere almeno una riforma greca da parte di Atene, implementata a scelta, diciamo, tra il taglio delle, cioè, tra l'aumento delle tasse, il taglio delle pensioni e maggiori privatizzazioni. Poi in serata Berlino ha smentito però questa indiscrezione. C'è un'altra indiscrezione che sta circolando, si parla di una possibile estensione dell'attuale programma di aiuti, quello che scade il 30 giugno fino a marzo del 2016, ma anche qui pare non ci sia un accordo, un'intesa a riguardo, anche perché ricordiamo Atene a fine giugno diciamo scade il programma di aiuti, devono ancora essere sbloccati i 7 miliardi, su questo che si cerca di trovare l'accordo, ma poi bisogna rinegoziare un altro piano, quindi la situazione è veramente complicata. E non dimentichiamoci che poi un'intesa va cercata prima del 30 giugno, perché poi va ratificata in alcuni, non tutti, ma in alcuni parlamenti nazionali, per cui occorre poi anche il tempo tecnico di ratificarla entro il 30 giugno, bisogna almeno avere una decina di giorni per farla ratificare in quei parlamenti dove è necessaria una ratifica. Quindi si sta lottando contro il tempo, ma si sta lottando effettivamente e negoziando, come dicevi tu, a un ritmo di un sirtacchi sempre più confuso. È vero, quel grande grosso guaio greco. Grazie Sergio Nava. Grazie a voi. Ciao Sergio. Siamo adesso invece sull'economia italiana. C'è un boom di assunzioni stabili nel 2015, secondo i dati dell'INPS che sono stati diffusi oggi, e nel pomeriggio c'è stata l'audizione del presidente dell'INPS Boeri alla Camera. Aumentano le assunzioni a tempo indeterminato più 155.000 nel primo quadrimestre 2015 rispetto al corrispondente periodo del 2014. In crescita anche i contratti a termine più 44.000 mentre diminuiscono le assunzioni in apprendistato meno 11.000. A conti fatti l'aumento delle nuove assunzioni supera le 188.000 unità, rivelano i dati INPS. Un'inversione di rotta, ma la strada è lunga, commenta il premier Matteo Renzi. Davanti alla Commissione Lavoro della Camera, intanto, il presidente dell'Istituto, Tito Boeri, ha fatto il punto sui costi delle proposte di riforma della legge Fornero. Se attuata, stima Boeri, l'ipotesi di reintrodurre un meccanismo di flessibilità in uscita per le pensioni, proposta Baretta Damiano, potrebbe costare una cifra ingente. Noi avremo un aggravio per le casse dello Stato, un disavanzo annuale che arriverebbe fino a 8,5 miliardi nel punto di massima. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E passiamo all'inchiesta che riguarda Lotito. Ho massima fiducia nella magistratura e confido di trasformare presto i miei accusatori in accusati. Queste sono le dichiarazioni di Claudio Lotito, presidente del Lazio, indagato per tentata estorsione a Napoli. La Digos ha perquisito anche la Federcalcio, anche di questo poi ci occuperemo in modo più approfondito dopo. Ora sulla cronaca, è stato trovato morto in un albergo di Roma il sociologo algerino, studioso del mondo islamico ed ex parlamentare dell'Ulivo Khaled Fouad Alam. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza, la salma è stata messa a disposizione delle autorità giudiziarie per il riscontro autoptico e sulla vicenda naturalmente indaga la polizia. E poi c'è il suicidio del pilota dell'Alitalia Maurizio Foglietti, già sospeso per aver sparato in casa sua, è stato trovato morto nel garage di casa a Todi, ha lasciato un testamento, vi ricordate che nella sua lunga esperienza di comandante d'aereo si è trovato a pilotare anche il volo di linea usato dal presidente della Repubblica Mattarella, che era appena stato nominato, no, per raggiungere Palermo in visita privata, ma Foglietti era già non poteva neanche più volare perché appunto da allora era stato poi da quegli spari sospeso. Per chiudere invece parliamo del tribunale che ha confermato a Milano il blocco di Uber Pop. La sezione imprese del tribunale di Milano ha respinto la richiesta della Uber di sospendere il blocco della sua app. La società americana deve perciò disattivare da oggi in tutta Italia il servizio Uber Pop che permetteva il trasporto di clienti anche da parte di chi tassista non era. Se l'applicazione non verrà bloccata, scatteranno automaticamente multe da 20.000 euro al giorno. Il ricorso di Uber era stato presentato contro la decisione della stessa sezione milanese che lo scorso 26 maggio aveva inibito a tutte le società del gruppo l'utilizzo del servizio. Secondo il giudice, l'applicazione Uber Pop rappresentava una concorrenza sleale nei confronti dei tassisti con licenza perché poteva offrire tariffe decisamente più basse. I tassisti esultano per il rigetto del ricorso, le associazioni dei consumatori invece invocano una modifica della legge che permetta ad applicazioni come Uber Pop di offrire un servizio di trasporto. Enrico Forzinetti, Radio 24, Sole 24 Ore. E ora è tempo di aggiornare chi sta viaggiando. Non perdetevi naturalmente effetto nota, né che siate la guida, né che siate stirando, cucinando, dormendo, facendo finta di dormire naturalmente con un orecchio attento a effetto notte. E intanto leggo qualcuno dei vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di effetto notte, che lo sapete sempre lì per voi giorno e notte, oppure gli sms al 349-238-6666. Per esempio scrive Marco: con Putin e con la Russia dobbiamo diventare super amici, non può che farci bene sotto tutti i punti di vista. Sapete che Putin ha detto soprattutto bisogna levare le sanzioni che sono state comminate alla Russia da parte della comunità internazionale per essersi annessa praticamente alla Crimea, aver occupato la parte est dell'Ucraina. Però Putin ha avvertito: guardate che ci rimettono moltissimo le imprese italiane. Poi ne parleremo, intanto voi fate le vostre riflessioni e ci sentiamo tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ricordarvele le notizie se avete acceso la radio in questo momento anziché alle 21. Volevo leggere qualche messaggio sia alla pagina Facebook di Effetto Notte sia sul 349-238-6666 dove arrivano i vostri sms. Clotilde dice: viva Francesco, ma perché non abbiamo un politico così carismatico, vero, sincero? Ne parleremo dopo, che ha istituito questo tribunale, intende istituire un tribunale per colpire i vescovi che hanno insabbiato atti di pedofilia da parte di prelati. E poi invece Gianni scrive: certamente per risparmiare, a proposito di quello che diceva oggi Boeri, presidente dell'INPS alla Camera, certamente per risparmiare tutti in pensione a 80 anni, troppo facile così. In realtà diceva andiamo anche prima, però rinunciando a qualcosa della pensione, a una parte. E poi invece qualcuno chiede: chissà per i tassisti quale sarebbe la concorrenza leale, a proposito del fatto che il Tribunale di Milano ha bloccato a Milano l'applicazione Uber Pop. In realtà su Uber Pop è una cosa ancora più spinta, diciamo, ma su Uber c'è anche l'appoggio di altro consumo. È una questione piuttosto controversa di cui varrà la pena di tornare a parlare. Ora però vi ricordo le notizie più importanti di oggi. Putin in Italia dice stop alle sanzioni, oggi ha visitato l'Expo insieme a Renzi, sono un danno, dice, anche per l'Italia. Renzi conferma che è un grande partner la Russia. E poi pedofilia, l'abbiamo appena detto, che il Papa crea un tribunale contro i vescovi insabbiatori. L'Unione Europea boccia l'ultima proposta da parte della Grecia, poi sembra che ci sia uno spiraglio da parte della cancelliera Merkel e della Banca Centrale Europea, poi di nuovo smentito, insomma dicevamo che è una specie di sirtacchio ormai questa vicenda. Renzi sui migranti, posizione per guadagnare, dice, da parte dei governatori del nord che protestano, è una posizione per guadagnare voti, quella contro i migranti. Lotito indagato per tentata estorsione, è stata perquisita anche la Federcalcio. E poi il crack della casa di cura Divina Provvidenza, è stato il mandato d'arresto per il senatore del nuovo centrodestra Azzolini. Il senatore dice: non farò nessun passo indietro, rimanete anche due suore. Omicidio stradale, ok del Senato, fino a 27 anni di carcere si può rischiare, ma il governo va sotto per due volte su degli emendamenti. E direi adesso di passare al primo tema, che riguarda la visita del presidente Putin in Italia, il suo incontro prima di tutto con il presidente del Consiglio Renzi all'Expo di Milano. Il rapporto con Putin, ve lo dicevo all'inizio, con l'Italia è un rapporto di amicizia, di stima da molti anni, sin da quando vi dicevo prima accompagnò i Mattia Bazar nel 1983 sotto le mentite spoglie di accompagnatore turistico, in realtà faceva parte del KGB, sino poi la grande amicizia con Berlusconi, i rapporti commerciali che sono andati benissimo sino a che non sono iniziate le sanzioni. Quindi diciamo in questi incontri che Putin ha fatto a partire da Renzi, ma poi dopo il Papa, insomma, questo tour de force ha soprattutto avuto l'obiettivo di uscire un po', di far uscire la Russia dall'isolamento dopo le sanzioni per quanto fatto da Putin, per il conflitto insomma in Ucraina. Ne parliamo con il nostro Gerardo Pelosi del Sole 24 Ore. Ciao Gerardo. Buonasera a voi. Insomma, diciamo, lo scopo della sua visita è stato soprattutto questo, no? E sullo sfondo di ogni discussione c'è sempre la questione ucraina. Sì, sì, certo. Qual è un po' la posizione? A due giorni da un G7 in cui Barack Obama ha usato parole veramente di fuoco contro la ripresa dei combattimenti nell'est dell'Ucraina e anche nei confronti di un linguaggio usato da tutti quanti i capi di Stato di Governo del G7, Renzi compreso nel comunicato finale del vertice, beh, questa mattina abbiamo visto, come si direbbe, un altro film. Abbiamo visto Matteo Renzi che ha ricevuto il presidente Putin su questa spianata dell'Expo a Rho con tutti gli onori che si devono tributare a un grande attore della comunità internazionale, un protagonista di cui non si può fare a meno. Non si può fare a meno per le grandi sfide globali che si chiamano ovviamente crisi economica, lotta al terrorismo, ma anche dossier del nucleare iraniano e crisi siriana. Senti, a proposito di questo, Gerardo, scusa se ti interrompo, ma facciamo sentire due passaggi di Renzi. Uno appunto sull'accordo Minsk 2 e poi sull'impegno, come dicevi tu, comune rispetto anche al rischio del terrorismo internazionale. Naturalmente sulla questione dell'Ucraina, su cui, come è noto a tutti, vi sono ansie, speranze e naturalmente anche elementi di divisione nel giudizio e nella ricostruzione, posso dire che abbiamo condiviso il principio fondamentale, vale a dire che l'accordo di Minsk 2 è la stella polare, la bussola, il punto di riferimento di tutti gli sforzi, e credo che tutte le donne e gli uomini di buona volontà lavorino perché il protocollo di Minsk 2 sia pienamente attuato e consenta di superare la stagione di crisi all'interno dell'Ucraina. La minaccia del terrorismo internazionale, la minaccia che tutto il mondo oggi si trova costretto ad affrontare e che vede insieme lo stesso rischio che va dal Mediterraneo fino all'Afghanistan, passando per sostanzialmente non soltanto per il Medio Oriente, ma per tutte le zone più calde del paese e del pianeta. E io credo che la condivisione di preoccupazioni e anche la volontà di trovare soluzioni insieme sia una priorità dei nostri colloqui e del nostro scambio. Tra l'altro vedo adesso un'agenzia che dice che Berlusconi si è incontrato con Putin, naturalmente vi dicevo lunga amicizia da 14 anni, e stanno parlando insieme. Quindi Gerardo, dicevi appunto che questi due sono stati i temi, l'Ucraina da una parte e l'accordo di Minsk e dall'altra questo del lavorare insieme, diceva sì, Renzi. In sostanza Putin che cosa ha fatto capire? Che l'Unione Europea e l'Occidente devono stare attenti a valutare tutti i costi delle sanzioni in termini ovviamente di economia, 1 miliardo di euro di contratti già firmati con tender che vinti da aziende italiane solo per l'Italia. Renzi invece ha posto l'accento sui costi che la comunità internazionale potrebbe accollarsi nel tenere Mosca ancora per molto tempo fuori dalla porta. Non si è parlato, almeno nella conferenza stampa, di sicurezza, però sappiamo tutti che insomma il rischio di una nuova guerra fredda è alle porte, e quando si ricomincia a parlare di missili, beh, ci torna alla memoria che insomma sono passati 25 anni da quel 1990, quando un certo Gorbaciov e un certo Reagan a Washington firmarono un accordo per la simmetrica distruzione, i russi degli SS-20 e gli europei, compresi gli italiani, che avevano a comiso i cruise e i Pershing, dei missili che dovevano contrastare, diciamo, la minaccia militare sovietica a quel punto. Quindi non si è parlato di questo, ma sullo sfondo c'è questo, inutile negarlo. Obama è stato molto duro nei confronti di Putin. Putin cerca delle sponde, Renzi glielo dà, senza rompere però la fedeltà all'Unione Europea, che il 25 e 26 in un vertice dei capi di Stato e di Governo a Bruxelles non potrà fare altro che confermare il pacchetto di sanzioni, perché Minsk 2 prevede appunto che il punto si farà alla fine dell'anno. Quindi questa è la conclusione, situazione. Insomma, la situazione. Grazie Gerardo Pelosi. Ciao Gerardo. Grazie a voi. Ciao. Scusatemi. E adesso, prima di prenderci un po' di ricreazione, ancora uno sguardo ai vostri messaggi, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che gli sms al 349-238-6666. Ringrazio molto Leo da Forlì. Poi un altro ascoltatore dice: lo sanno tutti che Gazprom avanza soldi dall'Europa, dalle banche anche italiane, la colpa è dell'Europa, non di Putin. Beh, però sulla questione ucraina, insomma, direi che non è colpa di Putin, cioè è un po' azzardato. Poi Agostino da Sondrio: in Ucraina i giovani muoiono muoiono in una guerra che il popolo ucraino non vuole. Noi italiani con il governo facciamo le carezze a Putin. Renzi, correggi il tiro e parlatene dei morti innocenti di questa guerra. Ogni tanto ci ritorniamo, effettivamente, Agostino, ogni tanto viene dimenticata. E poi dice invece un ascoltatore: attenzione voi giornalisti, continuate a fare cattiva informazione, Uber Pop è combattuto dai tassisti di tutto il mondo, così sembra che siano solo i nostri. No, sappiamo che Uber Pop è quella, diciamo, più invisa. Su Uber ci sono altre posizioni, soprattutto da chi vorrebbe la concorrenza. Vi dicevo che per esempio un'associazione come Altro Consumo si è schierata con Uber, però insomma, adesso non discutiamo di questo. C'era un servizio su questo argomento relativamente al Tribunale di Milano, la sua decisione. Però andiamo sugli altri temi più grandi della giornata, mi raccomando. 349-238-6666 per gli sms oppure la pagina Facebook di Effetto Notte. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il sole 24 ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Siamo di nuovo insieme, Roberto Giordano con voi con le vostre interazioni attraverso la pagina Facebook di Effetto Notte, i messaggi al 349-238-6666. Vi ho lasciato tema libero stasera, avete già scelto praticamente i rapporti con Putin in particolare, qualcuno su Uber, ma abbiamo detto adesso per il momento accantoniamo perché non è proprio l'argomento principale della giornata. Dice per esempio Silvia: Renzi deve essere impazzito per aver ricevuto Putin in pompa magna, c'è ovviamente da difendere un interesse fondamentalmente economico, è ovvio, ma Renzi pensa ogni tanto ai tanti giornalisti e intellettuali che il caro Putin ha messo a tacere, un uomo così si può definire amico. E c'è un altro messaggio un po', diciamo, in questi toni. Agostino scrive: i morti valgono di più o meno dell'export italiano in Russia, si parla troppo di soldi, poco di vita umana, e lo sappiamo, però purtroppo questa è quella che si chiama realpolitik, nel senso, va bene le questioni etiche, i principi eccetera, però poi quando si tratta di rapporti commerciali, ma questo succede con tutti i paesi del mondo al di là di quello che combinano internamente anche esternamente rispetto al maggior interesse che rappresentano i rapporti commerciali, purtroppo va così. E poi altri messaggi, vediamo invece questo di ancora sull'argomento, gli altri li leggerei dopo, ancora sulla questione di Putin. Invece adesso vi ricordo le notizie principali, così chi ha acceso la radio in questo momento può essere aggiornato, e poi andiamo su un altro tema che in realtà è molto collegato a quello di prima. La visita di Putin in Italia, all'Expo di Milano, nell'incontro con Renzi dice bisogna levare le sanzioni perché le imprese italiane perdono un miliardo, poi a colloquio col Papa e poi avete sentito con Berlusconi. La crisi greca, l'Unione Europea boccia l'ultima proposta greca, ma Merkel e Banca Centrale riaccendono le speranze con però smentite e vari balletti, come continua questa vicenda greca effettivamente in questo senso. Lotta alla pedofilia, il Papa istituisce un tribunale ad hoc contro i vescovi insabbiatori, ne parleremo tra poco. Il crack della clinica Divina Provvidenza, chiesto l'arresto del senatore del nuovo centrodestra Azzolini, in manette anche due suore. Omicidio stradale sì del Senato, ma il governo è stato battuto due volte. Legge Severino, dall'anticorruzione 25 proposte di modifica. Indagato Lotito, l'accusa di tentata estorsione, perquisita anche la FIGC, anche di questo ci occuperemo più tardi. Trovato morto il sociologo e giornalista Khaled Allam, che è stato trovato in un albergo di Roma, ma non ci sarebbero segni di violenza. E poi per le unioni civili alla Camera passa solo la mozione del PD. Putin è presente anche in questo spazio, nel senso che il protagonista in realtà è il Papa, con ben tre notizie che lo riguardano, tra cui principalmente appunto la visita di Putin, il colloquio con Putin. Però Putin, come vi dicevo, dopo aver incontrato Renzi all'Expo, aver fatto questa conferenza stampa comune in cui dicevamo gli argomenti sono stati appunto l'Ucraina, le sanzioni, l'obiettivo di Putin, poi continuando il suo giro con Mattarella, con il Papa, poi con Berlusconi soltanto in parte, diciamo, è stato quello appunto di uscire da questo isolamento che riguarda la Russia dopo che è scoppiata la crisi ucraina. È una esclusione che è stata sancita anche dall'esclusione dai colloqui del G7 che si sono tenuti nei giorni scorsi in Germania. Comunque, insomma, Putin e Papa si sono incontrati, soprattutto i temi del colloquio sono stati situazione in Ucraina, tanto per cambiare, e quella dei cristiani in Medio Oriente. Chiedo conferma al vaticanista del Sole 24 Ore Carlo Marroni. Ciao Carlo. Ciao Roberta, sì, è andata proprio così. Diciamo che c'è avuto una modalità molto interessante questo incontro di oggi col Papa. Lui sapeva di venire a Roma e con un preavviso abbastanza scarso ha chiesto questa udienza Putin al Papa. Il Papa, diciamo, il Vaticano gliela è subito data. È arrivato molto in ritardo però, no? Mi sembra. È arrivato con un'ora e 10 di ritardo. Ecco. L'altra volta era il 25 novembre del 2013, arrivò con 50 minuti di ritardo e veniva da Mosca. Questa volta ha fatto un'ora e 10 e veniva da Milano. Evidentemente a memoria di esperti sono gli unici ritardi, diciamo, degli ultimi anni presso le udienze del Papa, quindi evidentemente, però diciamo la posta in gioco è così alta che non è che ci sia caso più di tanto che si può attendere, diciamo. Insomma, voglio dire, il Papa poi questa è una settimana peraltro particolarmente impegnativa per il Papa, cioè aveva tantissime, diciamo così, appuntamenti. Già. E tuttavia è stato dato proprio perché diciamo così la vicenda, la diplomazia, diciamo, russa, ecco, lo chiede, insomma, ecco. E poi soprattutto, e questo è quello che dicevi interessante, cioè che il Vaticano non vuole partecipare all'accordone sanitario intorno alla Russia, diciamo così, non si vuole erigere a religione occidentale, ecco, questo è il fatto, e quindi questo non è solamente in questo caso, l'ha detto molte altre volte, cioè la copertura alle guerre, diciamo, di religione che sono state combattute negli ultimi 15 anni e a cui il Vaticano precedente, soprattutto quello di Giovanni Paolo II, aveva dato una sorta di copertura politica, ora questa è la mia opinione, ma insomma è abbastanza suffragata dai fatti, ecco, questo con Bergoglio è finito, e quindi anche con la Russia si dialoga. Si dialoga perché ci sono tante partite in corso, ci sono le questioni umanitarie dell'Ucraina, dove c'è anche una presenza cattolica non importante, c'è tutta la questione del Medio Oriente, della Siria e dell'Iraq, dove appunto anche la Russia ha un ruolo fondamentale, importante, e dove appunto la difesa dei cristiani e non solo è una questione aperta, e di questo hanno parlato i due. Quindi diventa naturalmente, come dicevamo, anche una questione fondamentalmente di diplomazia, a parte i rapporti commerciali di cui si parlava, però anche questo, di cercare di tenere la Russia dentro la comunità internazionale per affrontare appunto queste crisi internazionali. Poi Carlo, l'altro aspetto importante di oggi che riguarda il Papa è la decisione di istituire da parte di Papa Francesco un tribunale ad hoc dove sarebbero processati in Vaticano i vescovi accusati di reato di abuso d'ufficio episcopale, cioè coloro che hanno sottovalutato, addirittura insabbiato, le denunce di pedofilia agita da preti, da sacerdoti, no? Esattamente, no, giusto, questa è una decisione clamorosa, importante, che in qualche modo c'era già, ma molto sullo sfondo, in questa maniera è stata presa una decisione molto, molto precisa. Cosa succedeva? Che appunto c'erano i responsabili dei reati, preti o anche vescovi, come è successo qualche tempo fa, ricorderemo anche te, diciamo, ne parlavamo nella tua trasmissione, di quel vescovo arrestato a Santo Domingo perché abusava di bambini sulla spiaggia, quindi questo è un fatto, diciamo, che quindi era un vescovo, però quelli erano, diciamo, loro stessi, diciamo, consumavano i reati. Invece in questo caso appunto le famose coperture, che hanno vari livelli di copertura, può essere anche così, semplicemente essere stati poco bravi, non solamente, come dire, scientemente, anche poco diligenti. In questo caso è stato istituito di fatto un reato che si chiama, appunto, dicevi, l'abuso d'ufficio episcopale. I vescovi che non si fanno parte diligente nel mettere subito, diciamo così, azionare subito delle difese, e quello che accadeva nel passato era al massimo che venivano trasferiti dei preti dove spesso ricominciavano a fare quello che facevano. Questo è quello che succedeva, purtroppo, tragicamente, non voglio riderci, ma che è successo in Italia, ma soprattutto è successo in Irlanda. No, per dire, paradossale, appunto, ecco, soprattutto in Irlanda. Ma senti, faccio l'avvocato del diavolo, quindi con il Papa che sembra una cosa un po', però non credo, visto che non è per nulla nelle corde, nella storia di Papa Bergoglio, però non è che fare un tribunale interno al Vaticano possa servire a evitare che poi questi preti che si macchiano di pedofilia vengano giudicati da tribunali civili, diciamo, normali. Ecco, no, certamente. Allora, dobbiamo distinguere però. Nel caso, per esempio, del vescovo, del nunzio apostolico della Repubblica Dominicana, nessuno impedisce alla Repubblica Dominicana di agire penalmente contro il vescovo, però è un reato commesso in un paese specifico, che può essere l'Italia, l'Irlanda, ovunque si commette. In Vaticano ci sono due livelli, il livello canonico, il livello religioso, che c'è una pena religiosa, per lo più per esempio vengono ridotti allo stato laicale, vengono spretati, se mi consenti questo termine, sì, sì. Cosa che è accaduto col vescovo di cui parlavamo un attimo fa. E poi c'è il processo penale del Vaticano, quando sono cittadini vaticani però, non tutti i preti sono cittadini vaticani, sono pochi, i cardinali sono cittadini vaticani, però e altri pochi. Il caso di Paolo Gabriele, il famoso maggiordomo che trafugava i documenti, lui era un cittadino vaticano e è stato processato in Vaticano. Anzi no, perché è stato commesso in Vaticano il reato, per la verità. Sì. Quindi diciamo, te mi stai chiedendo se la Chiesa li denuncia nel senso che se si fa una cosa poi interna può darsi che poi ne finiscano in prigione, ne ci siano sanzioni pesanti. Il Papa ha dato precise indicazioni che vengano dati collaborazione aperta alle autorità civili. Questo naturalmente vuol dire tutto e niente, nel senso che se un prete dice, si confida con il vescovo dicendo che ha fatto un certo reato, ha commesso un certo fatto, diciamo il vescovo può denunciarla all'autorità, alla procura della Repubblica, però vale quello che vale per i cittadini italiani, nel senso che ci vogliono delle prove, non è solo sulla base così di una chiacchiera, certo. E quello che vale per i preti vale per i cittadini, quindi diciamo a quel punto ci deve essere un'equiparazione. Carlo, per chiudere, Carlo Marrone, c'è un'altra notizia ancora che riguarda il Papa e il Vaticano, un accordo fiscale tra Vaticano e Stati Uniti, cosa consiste? Esatto, quello che è stato fatto un mese e mezzo fa con l'Italia. Il Vaticano, questa Santa Sede in questo momento sta stringendo accordi con i paesi diciamo economicamente e finanziariamente evoluti, di due tipi, uno è contro il riciclaggio, che è quella diciamo, e contro, diciamo, tutte le decisioni antiriciclaggio, che sono quelle nate diciamo dopo le Torri Gemelle, non so per capirci, e quelle con l'Italia l'aveva fatto già due anni fa, e è stato siglato due mesi fa, ora e con gli Stati Uniti pure era stato fatto, ora oggi con gli Stati Uniti è stato siglato un accordo fiscale, cioè contro l'evasione fiscale, cioè cittadini americani che depositerebbero, possono depositare soldi in Vaticano, quindi allo IOR, che sono frutto presunto tale di evasione fiscale, c'è un accordo fra i due stati perché si scambino le informazioni a richiesta dell'autorità fiscale americana, dire questo cittadino americano XY, noi sospettiamo che abbia, dateci le informazioni, il Vaticano si impegna a darle. Quindi coerentemente insomma con la linea di trasparenza, no? Che ha voluto coerentemente con la linea di trasparenza, devo dire questo accordo di oggi è veramente grosso, perché il grosso si sospettava che insomma alcune operazioni venissero più che dall'Italia ormai, che era roba di bustarelle, sempre gravissima, ma ormai si dice poca cosa, i sospetti o le chiacchiere, no? Che appunto ci fosse un interesse degli Stati Uniti. Questo accordo in qualche modo dovrebbe risolvere questo tema. Grazie Carlo Barroni. Grazie a te Roberta. Ciao Carlo. Ciao. Vedevo anche un altro ascoltatore, Walter, che sulla legge Severino, vi dicevo che ci sono 25 proposte di modifica da parte dell'anticorruzione, scrive: vogliono cambiare la legge Severino per salvare il governatore della Campania e Berlusconi non si dovrebbe infuriare. Adesso vedremo un po' appunto come procede questa legge Severino, se ci sono state delle proposte dall'anticorruzione, evidentemente hanno intravisto degli aspetti da cambiare, da aggiustare, da migliorare. Allora ci prendiamo un po' di pausa così aggiorniamo chi sta viaggiando, è proprio questione di pochi secondi. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, vi aggiorno molto brevemente sulle notizie principali che sono rimaste essenzialmente le stesse da che è iniziato Effetto Notte, e cioè la visita di Putin in Italia, a cominciare dall'Expo, dal colloquio che ha avuto con Renzi, dagli argomenti importanti che ha trattato, poi l'incontro con il Papa e poi alla fine con Berlusconi. Pedofilia, il Papa, ne abbiamo appena parlato, crea un tribunale contro i vescovi insabbiatori di atti pedofili da parte di sacerdoti. L'Unione Europea boccia l'ultima proposta della Grecia, continua a essere un ping pong questo sulla Grecia, perché ci sono affermazioni e poi smentite anche su possibili spiragli da parte della Banca Centrale Europea, anche da parte della cancelliera tedesca Merkel. Renzi sui migranti dice quella dei governatori del nord è una posizione per guadagnare voti, e c'è, continua lo scontro tra Maroni e Alfano. Lotito, presidente della Lazio e anche della Salernitana, indagato per tentata estorsione, è stata perquisita la Federcalcio, lui dice i miei accusatori diventeranno accusati, ce ne occuperemo vedremo poi dopo. Poi il crack della casa di cura Divina Provvidenza, per la quale è stata fatta la richiesta di arresto per il senatore del nuovo centrodestra Azzolini, che dice: non ho intenzione di fare nessun passo indietro. Per quanto riguarda l'omicidio stradale, c'è stato il via libera del Senato, fino a 27 anni di carcere si possono scontare, ma il governo è andato sotto per due volte su degli emendamenti. Europa 24 notte. Vi ricordate, ne abbiamo parlato ieri dello slittamento dell'approvazione dell'agenda europea sull'emergenza immigrazione, quindi sulla ripartizione dei migranti, una decisione che ancora slitta, non viene presa. Bisogna continuare a fare pressione, così ha detto l'eurodeputata Cécile Kyenge, relatrice del rapporto d'iniziativa del Parlamento di Strasburgo sull'immigrazione relativa allo slittamento, vi dicevo, dell'approvazione dell'agenda. Allora sentiamo Kyenge intervistata da Valentina Furlanetto. Settembre si dice, o forse ottobre. L'approvazione dell'agenda sull'immigrazione della Commissione Juncker, che prevedeva tra le altre cose una ripartizione dei profughi arrivati sulle nostre coste fra tutti i paesi dell'Unione, è stata rimandata a data da destinarsi, in autunno probabilmente. In ogni caso, troppo tardi per risolvere il problema dell'accoglienza in Grecia e in Italia quest'estate. Fonti del Consiglio europeo prevedono battaglia politica e nessuna decisione formale alla riunione affari interni europei di martedì 16 giugno a Lussemburgo, né al vertice dei capi di Stato e di Governo a fine mese. I nodi principali restano i criteri individuati per la chiave di ripartizione e l'obbligatorietà. L'eurodeputata Cécile Kyenge, relatrice del rapporto di iniziativa del Parlamento di Strasburgo sull'immigrazione. Io e i miei colleghi, insomma, a livello del Parlamento europeo, il nostro compito lo stiamo facendo. Il problema non è il Parlamento e non è la Commissione, ma è proprio il Consiglio, quello che ha detto all'inizio, cioè i paesi, gli stati membri che continuano a fare un passo indietro. E allora, per farli fare un passo avanti, le istituzioni nazionali devono, a mio avviso, collaborare e spingere i paesi verso una soluzione. Non si parla più di quote, perché l'agenda non ne parla, ma parla piuttosto di una chiave di distribuzione. E l'Italia potrebbe dare l'esempio in questo, con il modello che deve fare sul territorio, nella distribuzione e in tutte le regioni. Possiamo portarlo anche in Europa, e quindi non possiamo farci la guerra e chiedere un'altra cosa dall'altra parte. Dopotutto, i fondi che arrivano sui territori provengono in parte dall'Europa e l'altro è il cofinanziamento nazionale e non di certo dalle regioni. A remare nettamente contro il dossier sono Ungheria, Repubblica Ceca, Polonia, Bulgaria, Romania con i paesi baltici e la Spagna, e alla fine sono rimaste soltanto Italia e Grecia. La Grecia, che è allo stesso livello, cioè noi teniamo conto che noi abbiamo dall'inizio dell'anno accolto un poco più di 50.000 persone. La Grecia non è da meno. Poi un altro che avrebbe un peso maggiore è la Germania. Se cambiasse anche la Francia non sarebbe male, ma in questo momento è un po' ambigua. Però credo che la Francia, dal momento che di quote non ne parliamo, stiamo parlando di una chiave di distribuzione, sicuramente dovrebbe rivedere un po' quella che era la sua posizione. La Spagna è anche un po' ambigua, insomma, non è del tutto esonerata da questa ondata di ambiguità. E se prima l'Italia protestava ritenendo comunque troppo bassa la cifra di 24.000 profughi per il ricollocamento dal nostro territorio, ora risulta abbastanza chiaro che per il 2015 ce la dovremo cavare da soli. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Ora invece parliamo del presidente della Lazio e della Salernitana, Claudio Lotito. Agenti della Digos hanno perquisito su disposizione della Procura di Napoli gli uffici della sede della FIGC e la casa del presidente della Lazio, Claudio Lotito. Il provvedimento è scattato nell'ambito dell'inchiesta sulla telefonata di cui si era parlato intercorsa febbraio scorso tra Lotito e Pino Iodice, direttore generale dell'Ischia, nella quale il presidente della Lazio, quindi Lotito, si augurava che piccole squadre come il Carpi, il Frosinone, non approdassero in Serie A per non compromettere l'incasso dei diritti televisivi del campionato. Nei confronti di Lotito la procura ipotizza il reato di tentata estorsione. Cerchiamo di farci schiarire un po' l'idea, anche di raccontarci il personaggio Lotito, di cui si parla ormai da tanti anni, da Pippo Russo. Buonasera Pippo. Buonasera a voi ascoltatori. Sociologo e giornalista, autore di Gol di rapina, il lato oscuro del calcio globale. Cioè ancora continuano questi lati oscuri, Pippo, mi sembra. Si moltiplicano addirittura. Appunto. In questo caso, quindi, Lotito poi è un personaggio, è veramente un personaggio, no? Era il re delle imprese di pulizia, no? Fino a qualche anno fa, poi però gli stava stretto. Personaggio che... Sì, Lotito è un personaggio veramente variegato, è un piccolo imprenditore che ha saputo costruirsi un impero attraverso una serie di società di servizi che vanno dalle pulizie alla vigilanza privata, al catering, che hanno però sempre lavorato sulle commesse pubbliche. Dopodiché è diventato soprattutto un personaggio famoso, di grande notorietà, attraverso il calcio, perché dalla presidenza della Lazio è diventato poco a poco il principale uomo di potere del calcio italiano. Oggi potremmo definirlo il Rasputin del calcio italiano, perché è un personaggio che sta costruendo la sua forza sulle debolezze di un sistema istituzionale estremamente screditato e soprattutto sulle debolezze di un panorama dirigenziale del calcio italiano, che è quello probabilmente del profilo più basso che abbiamo avuto nella storia del calcio di questo paese. Per quanto riguarda invece lo specifico dell'accusa di estorsione, di tentata estorsione, specifichiamo, riguarda il contenuto di quella telefonata segnatamente al tentativo di Lotito di far approvare il bilancio della Lega Pro, un bilancio molto chiacchierato, dal quale fra l'altro dipendeva la continuità al potere da parte del presidente Macalli, di farlo approvare vincolando il voto di approvazione alla distribuzione di risorse che sarebbero stato ossigeno prezioso per il club della Lega Pro. Lotito era un grande alleato di Macalli, sempre rimanendo nel quadro delle debolezze dei dirigenti italiani, che sono la forza di Lotito, e attraverso quello che si evinceva dalla telefonata veniva fuori che, qualora i dirigenti di club avessero recalcitrato nell'assicurare il sostegno a Macalli attraverso il voto del bilancio, non sarebbero stati erogati dei contributi. Quindi su questo verte la questa inchiesta, questo verte l'inchiesta. Pippo Russo, attendiamo di vedere gli sviluppi. Lui è convinto, dice che gli accusatori diventeranno accusati, vediamo come andrà a finire. Contro di me è una campagna diffamatoria per ostacolare l'opera di risanamento del calcio. Bene, grazie Pippo Russo intanto. E a voi buona serata. Ciao Pippo, noi ci risentiamo alle 22.